Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Sei minuti dopo le 11, siamo in diretta i Padri Eterni su Radio 24. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua, insomma, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri in queste puntate dove, insomma, tanto del tempo giustamente è dedicato anche al coronavirus. Noi non ne parleremo dal punto di vista medico, ma oggi cercheremo di dare e darci anche qualche dritta, no? Perché, insomma, sono, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, un tema tosto di cui parlare con i nostri figli. Mai come in questa settimana, no? Visto queste giornate a casa, da scuola, con i figli che ci costringono anche a inventare nuovi spazi, nuove routine, nuove cose da fare insieme. Eh sì, ci costringono anche comunque a lavorare, molti di noi, e, insomma, sia padri che madri, dover gestire, no, i nostri ragazzi con notevoli esercizi di giocoleria. Le babysitter sono ricercatissime in questi giorni, ma non sono mai così ben volute. Ma ci si organizza anche nella rete di relazioni tra amici, tra colleghi, tra parenti. Per, insomma, qualcuno usa il termine parcheggiare i propri figli, che, insomma, credo che sia sbagliato, ma, insomma, per le regioni in cui le scuole sono chiuse anche questa settimana, perché, sai, una prima settimana ti organizzi anche, no? Sulla seconda diventa già più complicato, e anche le scuole sono in difficoltà. Ieri parlavo con il coordinatore della classe, il professore coordinatore della scuola di mio figlio, e loro stessi dicono, insomma, è difficile, navighiamo un po' a vista, cerchiamo tutti di fare del nostro meglio, non puoi inventarti la scuola online in pochi giorni, insomma. Certo. Richiedono competenze, organizzazioni, abitudini, ma anche perché poi si naviga un po' a vista e spesso queste decisioni vengono comunicate un po' all'ultimo momento. Ma come, insomma, è ovvio che sia così. Però oggi cercheremo di darvi qualche dritta, abbiamo con noi degli esperti, ma di raccogliere anche un po' delle vostre esperienze di madri, in particolare di padri, visto che questo è il programma a voi dedicato. Su cosa vi siete inventati in questa settimana, cosa vi inventerete la prossima settimana, se avete organizzato qualche stratagemma particolare, insomma, come siete andati, come state affrontando questa che è anche una difficoltà. Non può ricadere poi tutte le nostre anche paure e timori, no, sui figli. Oddio, non riescono a fare l'intero programma, e quindi caricarli di montagne, di esercizi, di compiti, a volte anche inutili, insomma, bisogna coordinarsi con gli insegnanti. Insomma, cosa state facendo voi? 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp. Ripeto, 349-238-6666, raccontateci, scriveteci in quanto papà, come state affrontando appunto queste giornate dove il coronavirus sta stravolgendo la nostra quotidianità. Affrontiamo il tema dal nostro punto di vista, quindi prendendo la cosa assolutamente sul serio, quindi parlando di gioco. Eh sì, perché in verità queste ore, queste giornate passate a casa possono avere anche dei risvolti inattesi. Ah, ma non c'è dubbio, noi abbiamo già rispolverato la tombola. Sì, con premio o senza premio? Rigorosamente con premio. Ma le tue tre figlie, cioè, hanno le singole cartelle, o loro tre stanno al tabellone e tu sei l'unico con la cartella? No, di solito al tabellone sto o io o la nonna. Cioè, ogni figlia ha tre cartelle e i premi sono rigorosamente in denaro per la cinquina, per la tombola e anche per la terza, come si chiama? La quaterna, scusami. C'è tutta una bisca. Okay. Parliamo di gioco, lo facciamo con Francesca Antonacci, che è docente di pedagogia del gioco dell'Università Milano Bicocca di Milano, espertissima di gioco, lei stessa amante del gioco, con la quale appunto volevamo affrontare questa cosa, come e quanto il gioco di società possa esserci utile in queste giornate, anche forse per fare lezioni, per fare ripasso o per riacquisire o riallenare alcune competenze. Ciao Francesca, benvenuta ai Padri Eterni. Buongiorno e buona domenica a tutti. Grazie. E a tutti gli ascoltatori. Ciao Francesca. Allora, Francesca, l'ho sentita qualche giorno fa, stava giocando con i suoi figli a Pandemic. Francesca, che cos'è Pandemic? Partiamo da qui. Ma Pandemic è uno dei tantissimi giochi in scatola da tavolo che escono ogni anno anche in Italia nuovi. È molto bello giocare alla tombola, sono bellissimi giochi tradizionali, Monopoli, Scarabeo, però ricordiamoci che ne esistono tantissime di uscite nuove e di giochi che, con cui si può giocare su qualsiasi argomento. Tornando a Pandemic, Pandemic è un gioco, intanto un gioco cooperativo, vuol dire che a differenza di molti giochi non si gioca uno contro l'altro, ma tutta la squadra deve cooperare per riuscire a battere il gioco stesso. E in questo caso il gioco è si prodiga per diffondere delle malattie sul pianeta. Quindi una cosa a tema. Quindi in Pandemic si tratta di coalizzarsi, ognuno ha un ruolo, chi fa il medico, chi fa il pianificatore di contingenze, chi fa il ricercatore, chi fa l'organizzatore, e bisogna appunto cercare di delimitare il contagio delle malattie sul pianeta che si diffondono nelle varie città e trovare la cura. Quando si trovano le diverse cure per le malattie, allora si riesce a vincere il gioco, che devo dire è molto difficile, perché noi ci stiamo armando di buona volontà e di coraggio, stiamo facendo diverse partite, insomma, è dura, però ci si diverte. Che poi è una metafora interessante, no, Francesca? Perché credo che una delle caratteristiche che è stata messa in risalto, no, della circolazione di questo virus è la cosiddetta responsabilità sociale. Cioè, finalmente ci siamo resi conto, no, che i nostri comportamenti influenzano non solo le nostre vite, ma possono influenzare anche quelle degli altri. Quindi ben vengano i giochi, no, che ci fanno riscoprire questo tipo di modalità di stare nel mondo. Esatto, cioè di dover cooperare, di dover collaborare, di dover ascoltare anche le cose che arrivano dall'esterno, quindi non solamente pensare di fare la propria piccola singola strategia, ma dover coordinare con gli altri, quindi questo è già un grande insegnamento che viene da questo gioco. Poi devo dire che appunto vedere la mappa, no, del pianeta che viene piano piano contagiata è interessante, perché si capiscono tante cose su che cosa vuol dire contagiare gli altri, diffondere il virus, per cui ci sono proprio delle cose che si vedono accadere mentre si gioca. E al tempo stesso il fatto che si stia giocando insieme non vuol dire che si sta prendendo in giro, no, la malattia o il contagio, ma si sta semplicemente affrontando la cosa con un atteggiamento appunto non catastrofistico, non spaventato, perché tanto la paura non aiuta nessuno a superare le difficoltà, ma genera solo panico, genera solo situazioni appunto difficili poi da contenere. Certo. Scomposte, ma si alleggerisce la situazione e si provano appunto a pensare a strategie che poi forse possono essere anche utili a ragionare sul proprio quotidiano. Quindi magari uno dice, ecco, non vado a prendere il metro piuttosto che negli orari di punta, eccetera, eccetera, no? E capisce che se le indicazioni che vengono date dal governo, dalle istituzioni hanno un senso, è perché poi generano, no, comportamenti sbagliati. Certo. E Francesca, ti chiediamo un attimo di pazienza, diamo l'informazione a chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. Padri Eterni. Eccoci qua ancora i Padri Eterni, con noi Francesca Antonacci, docente di pedagogia del gioco all'Università di Milano Bicocca. Con lei stiamo parlando appunto di quanto il gioco di società, il gioco che ti obbliga anche, no, a stare insieme, possa essere utilizzato, possa essere riscoperto in queste giornate dove i nostri figli sono costretti in molte regioni d'Italia ad essere a casa da scuola. E Francesca, ovviamente un gioco di società non può sostituire una lezione scolastica, non può sostituire un compito, o invece può? Ma allora, sostituire non lo so, nel senso che la sostituzione prevede appunto l'idea che il gioco sia uno strumento in qualche modo didattico, cosa che io appunto non condivido. Però è vero che giocando si imparano tante cose, per cui se si vuole utilizzare il gioco come strumento per imparare le tabelline, è meglio imparare le tabelline con tante altre modalità che ci sono, didattiche anche divertenti. Se invece vogliamo dire che attraverso il gioco io imparo per esempio a fare calcoli mentali, a ragionare sulle statistiche, a ragionare sul rischio e le probabilità, questo è vero. Che siano competenze matematiche, perché no? E al tempo stesso giocando si imparano competenze geografiche, storiche, eccetera eccetera, però non vanno visti secondo me come sostituti, no? Perché non è la sostituzione di una lezione, sono altre modalità, altri linguaggi con cui si imparano tante cose che hanno lo stesso, forse a volte maggior valore, proprio perché vengono poi incamerate attraverso il divertimento, la condivisione, e quindi riescono anche a essere incamerati in modo più diciamo rafforzato, no? Rispetto a una classica o tradizionale lezione. Quindi il gioco visto come integrazione, diciamo così, no? Poi come tu ben dicevi, per esempio giocando a Pandemic, se non è naturalmente un'ora di geografia, ma può essere un modo divertente per ripassare un po' a geografia. Tornando ai classici, mi viene in mente la buona vecchia e cara battaglia navale, tanto per dirne una, che è un ottimo modo, un eccellente modo per ripassare gli assi cartesiani, come funzionano per esempio, no? Insomma, quindi alla fine giocare di più per capire che il gioco non è mai tempo perso, ma è un tempo che ti cambia e ti completa, no? Non è mai tempo perso per tantissimi motivi, in parte per questo che appunto, cioè, il gioco è fatto dei linguaggi della cultura umana, no? Per cui dicevi, certo, appunto la geografia, gli assi cartesiani, la matematica, la storia, quindi essendo fatto dei linguaggi della cultura umana è cultura di per sé, no? E quindi diffonde e amplia la cultura, ma poi è anche un grande fenomeno di socializzazione, un modo per stare insieme, per imparare a sopportare la frustrazione, la difficoltà di stare con gli altri, imparare appunto ad ascoltare, a stare nelle regole, a condividere, no, i momenti, quindi cioè, si impara a tantissimi livelli, quindi giocare non è mai tempo perso, per nessuno, neanche per i grandi, attenzione anche a questa cosa. Ringraziamo Francesca, No, l'ultima parola, e nelle generazioni, quindi fa stare insieme genitori, figli, nonni, nipoti, amici, eccetera, eccetera. No, questa infatti è poi l'occasione davvero di anche di imparare le regole del gioco, vuol dire ascoltare l'altro, vuol dire darsi i turni, vuol dire dibattere, ma trovare anche il compromesso, insomma tutto quello che è il gioco, lo sappiamo bene quando appunto ci prendiamo il tempo per giocare. Grazie davvero a Francesca Antonacci, docente di pedagogia del gioco dell'Università di Milano Bicocca, per essere stata con noi. Buona giornata e buona partita anche Pandemic, insomma poi facci sapere chi vince, ma si vince tutti insieme, quindi la risposta è facile. Grazie a voi, ciao, e buona domenica. Ciao Francesca, grazie. E adesso che succede? È un po' l'espressione che ha accompagnato, no, la notizia delle scuole chiuse in tantissimi adulti, in tantissimi genitori. Un po' cosa succede appunto perché c'è una quotidianità che deve continuare, che è quella del lavoro, degli impegni, del non essere a casa, e quello appunto del dover gestire il tempo dei figli. E poi l'altra paura, come dicevamo prima, che cosa imparano? Cioè perdono 15 giorni di scuola, aiuto, non riusciranno a finire il programma, come recupereranno? C'è chi, insomma, questa paura è anche giustificata, vedi i ragazzi che si stanno preparando per la maturità, no? Che hanno grandi punti interrogativi, però insomma nei padri e nelle madri c'è in tanti questo timore. Volevo un po' riflettere proprio su questo, un po' vi invito ancora a scriverci al 349-238-6666 per raccontarci, in quanto padre, in quanto madre, come state reagendo all'organizzazione last minute dei vostri figli in questi giorni. E poi però abbiamo invitato un pedagogista e fondatore e direttore del centro psicopedagogico di Piacenza, è Daniele Novara, con cui appunto volevamo chiedere qualche dritta. Ciao Daniele, benvenuto ai Padri Eterni. Ciao Federico, ciao Daniele. Matteo, eccomi qua, ciao. Allora Daniele, intanto il primo consiglio per noi padri, cosa possiamo fare in questi giorni per rassicurare i nostri figli? Non tanto sul panico da coronavirus, ma sugli altri panici, cioè perdere 15 giorni di scuola è grave? Ma non direi, non è un tempo particolarmente significativo. Non va dimenticato che in tanti sistemi scolastici europei 15 giorni ci sono per Pasqua, per le vacanze autunnali, in alcuni sistemi per le vacanze di Carnevale. Ecco, non è un tempo particolarmente significativo. Va detto che in Italia il sistema scolastico è particolarmente pervasivo rispetto alla vita delle famiglie, insomma alla vita della famiglia senza le scuole può subire un contraccolpo non indifferente, ecco, può andare facilmente in blackout. Diciamo che tutte le famiglie italiane con figli contano, ecco, sulla scuola, non solo per i processi necessari di apprendimento, ma anche per in qualche modo, diciamolo pure, riempire il tempo che a volte è piuttosto lungo. Per cui bisogna riorganizzarsi, ecco, la parola giusta secondo me è organizzarsi, come in fondo si fa di domenica, come in fondo si fa d'estate, e quindi la sera prima di ogni giornata ci si mette al tavolo e ci si organizza proprio per scandire la giornata e non subirla, ecco, non deve diventare un vuoto, ma deve diventare un'occasione per costruire qualcosa che può attenere alla vita di famiglia, ecco, e quindi recuperare anche delle responsabilità sulla gestione della casa, perché anche questo è importante, sul fare la spesa, sul fare da mangiare, sul aiutare nei lavori domestici. Noi abbiamo una generazione di ragazzi un po' serviti, diciamo, forse un po' troppo, e quindi è veramente tutto ben di Dio questo che possiamo mettere in campo per dargli un segnale chiaro che alcune cose vanno conquistate, devono collaborare, partecipare e, come dire, darsi da fare. Poi, specialmente per i più piccoli, prego, dimmi. Daniele, ma infatti, guarda, ti volevo proprio chiedere questo, no? Perché poi dipende da come viene letto questo tempo, no? Da come... Allora, può essere anche l'occasione, come tu ben dicevi, di fare cose che normalmente non si fanno o si fanno meno, anche proprio in ambito domestico. A me viene in mente, per esempio, no? Tutte le mie figlie, quando tornano a casa da scuola, normalmente trovano già pronto. Può essere un'opportunità, per esempio, per cucinare insieme. Può essere un'opportunità per riordinare un pochino le camerette, per esempio, no? Cose che normalmente... Cioè riappropriarsi un pochino di quella dimensione domestica, e qui dico sia per i figli sia per i padri, che normalmente sono quelli che per ragioni lavorative magari più spesso vi si sottraggono, e riscoprire un po' questa dimensione. Assolutamente, ecco, i figli, specialmente quelli italiani, hanno bisogno di rigore, diciamo, ecco, quindi di non avere genitori troppo servizievoli. Non so quante volte l'ho sostenuto anche nei miei libri, è quello che ci ha insegnato la Montessori. Insomma, i bambini, i ragazzi amano fare, e quindi più fanno e più in qualche modo non solo imparano, ma si sentono importanti, ecco, si sentono protagonisti, si sentono protagonisti. Cioè, bisognerebbe, come dire, creare anche, ne avete parlato anche prima, una specie di grande gioco, dove gioco a punti, ecco, vediamo quante cose riusciamo a fare in una settimana, no? E creando un grande cartellone, e poi per ogni cosa che si riesce a fare ci attribuiamo un punteggio e vediamo alla fine quanto siamo riusciti a fare. Ecco, sfruttare la situazione per uscire dai soliti schemi, anche per quanto riguarda il discorso dei compiti scolastici. Sì, va bene, qualcosa bisogna fare, ma però è anche un'occasione per cambiare un po'. Insomma, io penso che ci sono tante possibilità, non so, penso alle scienze, la storia dell'arte. Noi abbiamo delle città meravigliose, anche poter scoprire qualcosa, la storia del proprio territorio, ma insomma no, riuscire a liberare dei nuovi interessi, ecco, no? Perché se noi anche in queste 2 settimane riproduciamo, no, la scuola della trasmissione, delle risposte esatte, e veramente i figlioli non si entusiasmeranno. Se invece riusciamo a, così, a creare delle nuove opportunità, no? Per ma esempio se... la storia anche delle ricette, ecco, se no, ma abbiamo qualche ricetta, insomma, sono tutte strategie dove serve tempo, no? Quello è in dubbio. Stavo ragionando anche sul fatto, Daniele, che insomma, sì, adesso tantissime, forse c'è una percentuale di genitori che in queste settimane stanno scoprendo o riscoprendo anche l'home working, il lavorare da casa, no? che anche qui rispetto ai figli richiede organizzazione, giusto? Perché ci sono bambini e bambini che si trovano papà o mamma che lavorano in casa, non sono abituati, ma forse nemmeno si rendono conto che stanno lavorando, quindi richiedono comunque le loro attenzioni, chiedono di giocare. Anche qui un'altra volta la parola chiave è organizzazione, cioè essere chiari con i propri figli, mettere degli spazi, trovare il modo di spiegare quello che si sta facendo. Assolutamente, il termine è sempre quello, organizzazione, anche se perché se pretendiamo che i figlioli magari di 5-6 anni abbiano chiaro cos'è il lavoro, diciamo così, insomma, rischiamo. Se invece gli mettiamo dei confini chiari, no? Delle indicazioni, gli diamo delle indicazioni chiare, ok? In questo momento il papà lavora, e quindi non bisogna disturbarlo, lavora sul computer, ecco, non bisogna assolutamente disturbarlo, ecco. E in generale comunque i figlioli, anche piccoli, hanno il rispetto del concetto di lavoro, anche se non capiscono bene cos'è, ed è estremamente interessante, come se ci fosse una sapienza archetipica, no? Di generazione in generazione, che riconoscesse l'importanza del lavoro, no? Per la nostra storia umana, insomma, in fondo poi il lavoro è anche la base della nostra Costituzione, e quindi creare questo spazio proprio come momento in cui anche i figlioli, no, riconoscono cosa sta facendo il papà, cosa sta facendo la mamma. E non... Oh, attenzione, è caduta la linea con Daniele Novara. Lo stiamo ripescando, ne approfittiamo, diamo le meteo. Daniele, ci sei? Daniele? Sì, ci sono. Ah, ecco, ok, perfetto, scusa, sì, sì. C'è stato uno stacco. E comunque, insomma, era chiaro il concetto che ci stavi dicendo. A questo aggiungo che comunque per chi volesse tutte le informazioni su come lavorare da casa, stare insieme alle figlie e fare la peperonata, tutte e tre, Matteo Bussa è a disposizione per dare... Soprattutto sulla terza, sì. Sulla terza. Daniele, grazie davvero per aver condiviso con noi queste importanti riflessioni. Ricordiamo il titolo del tuo ultimo libro, Organizzati Felici, come... organizzare in famiglia le principali sfide educative dei figli dai primi anni all'adolescenza, edito da Burr Rizzoli. Buona domenica Daniele, grazie, ciao. Grazie Daniele. Buona domenica a tutti, grazie. Buona domenica, arrivederci. Noi ci fermiamo, pubblicità, il meteo, poi ancora qua con i padri. Padri Eterni. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito, i Padri Eterni, @radio24.it, se volete scriverci potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook con idee, storie, suggerimenti, critiche, accettiamo di tutto, via sms, whatsapp oggi 349-238-6666 per raccontarci anche le vostre storie, come vi state riorganizzando in questi giorni con i figli a causa delle scuole chiuse in diverse regioni italiane. Insomma, ci state scrivendo in tanti, ovviamente è anche difficile, no? È complicato ovviamente generalizzare perché i lavori sono diversi, le famiglie sono diverse. Abbiamo cercato di darvi qualche consiglio insieme ai nostri ospiti, però insomma anche voi ci state rispondendo. Cioè, ci scrivono adesso da una zona gialla del Veneto, Roberto, che ci scrive, dice che fa fatica con la figlia a tenerla in casa perché la figlia che frequenta il secondo anno del liceo linguistico comunque, ma vedo io anche con mio figlio comunque escono, vogliono fare vita sociale, incontrano le amiche e gli amici. Ci dice, pensate che una settimana fa avevamo una sua corrispondente francese ospite a casa nostra, ora questa ragazzina è rientrata in Francia ed è rinchiusa in quarantena, quindi insomma la gita in Italia le sta costando un altro soggiorno a casa. Possiamo dirlo con grande chiarezza, non c'è alcuna controindicazione a uscire, a prendere un po' d'aria, ad andare al parco giochi, nel senso, anzi forse sono più tra virgolette pericolose le situazioni in cui si sta chiusi. Esatto, ma adesso c'è il momento di una festa, dobbiamo festeggiare insomma questo primo marzo, che per una persona, per un nostro amico, un nostro ascoltatore, sai, l'ho visto da poco, mi ascolta la domenica mattina, perché insomma, ma soprattutto è un amico di tutti noi italiani. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Vincenzo Mollica. Ciao Vincenzo. Buongiorno. Ciao Vincenzo, che piacere. Come stai Vincenzo? Mi piace dire complimenti per la trasmissione perché la seguo sul serio la domenica mattina. Guarda, quando me l'ha detto mi sono quasi emozionato perché... Ma ci credo, ma anche perché poi insomma Vincenzo è una specie di leggenda del giornalismo italiano, ma soprattutto un personaggio molto amato, veramente in maniera del tutto trasversale. Quando ho detto che sarebbe stato nostro ospite ho ricevuto centinaia di messaggi di affetto che ti giro tutti, sì. Vincenzo. ti ringrazio moltissimo. Vincenzo, è il tuo primo giorno in pensione, sei già annoiato? No, non è niente male. No, non è niente male. Non so come sarà la pensione, ma insomma poi te lo racconterò Federico quando ci vedremo. Però diciamo, i presupposti sono buoni, dai. Vincenzo, tu insomma conosci il nostro programma, sai che parliamo dell'essere padre anche. Sì, come no. Che padre sei stato tu? Come hai fatto a conciliare il tuo lavoro con l'essere padre? Io tra l'altro conosco insomma, tua figlia, insomma, Caterina, Caterina si vede proprio l'amore, lo stretto legame che c'è tra di voi, ma come hai fatto a mettere insieme il tanto tempo, perché hai dedicato tanto tempo al tuo lavoro, all'essere anche un grande papà? Io ho seguito una regola basilare, principale per me, almeno per me è stato basilare, è stata una regola basilare. Quella di accompagnare tutte le mattine dall'asilo fino all'università mia figlia Caterina a scuola. Oh, tutte le mattine. Che meraviglia. Da dovunque io arrivassi, io cercavo, dovevo andare a fare le interviste a Parigi, a Londra per il mio lavoro, eccetera. E andavo e tornavo nella stessa giornata perché l'importante per me era la mattina poi tirarmi su alle 6:30, alle 7 e accompagnare Caterina a scuola. E in quel pezzo di tragitto di automobile che facevamo insieme, raccontavamo le nostre storie, mi raccontava le sue, io raccontavo le mie, insomma si è creato un legame bellissimo che dura ancora adesso. E quando posso, adesso che, anche adesso che non ci vedo, però cerco di accompagnarla e magari di avere con lei sempre quei pochi minuti che però ti danno una continuità, una confidenza, e quello è stato meraviglioso per me. Penso che una volta andai a intervistare Barbara Streisand a Los Angeles e ce l'ho fatta in 2 ore e in 2 giorni, scusami, per qualche ora per ritornare la mattina che Caterina aveva un esame. Vincenzo, senti, una curiosità, no? Tu sei stato il padre giornalistico, potremmo dire, di tanti artisti italiani, hai intervistato pressoché chiunque e tutti ti ricordano con affetto. Ieri lo abbiamo visto anche, no, nell'ultima puntata di Doreček Gulp, le tante testimonianze di personaggi che hai intervistato nel corso della tua lunga carriera. Mi chiedevo proprio da padre, no, tua figlia Caterina ti ha mai chiesto magari di intercedere presso un cantante che le piaceva particolarmente, insomma, di chiederti un autografo, un contatto, qualcosa? No, quello diciamo ci ha pensato sempre da solo con le sue amiche. Devo dire, che in questo è molto importante, Caterina. Diciamo, quando c'era un cantante che le piaceva, eccetera, andava, allora si metteva lì, capito? Cercava di, insomma, poi per fortuna ci sono state alcune persone che coincidevano con le sue persone, con le mie. Per esempio, lei è una grande fan di Francesco Guccini, quindi lì, insomma, era facile perché era uno di famiglia, non era complicato, insomma, oppure di Vinicio Capossela, di cui è un grande fan, insomma, quello l'ha visto. Caterina ha avuto la fortuna di vedere Vinicio venire in casa nostra, piccolina, che faceva sentire il disco nuovo appena posto di Caterina, dove Caterina studiava, insomma, sono delle amicizie che sono nate così, insomma, belle. Caterina, no? Come se le trovate in casa, oppure una volta con Massimo Troisi, con un altro suo grande fan, un altro suo grande mito, insomma, che a Cannes con Rosemary, dove li ho sempre portate con me quando ho potuto, durante questi tempi, insomma, Caterina si è trovata in braccio a Massimo Troisi durante un ascensore con Rosemary che gli era scappato adesso. Insomma, sono tanti piccoli episodi di vita vissuta, insomma, dolci, ecco, carini. Insomma, che bello, io ascolterei Vincenzo per ore, tra l'altro, perché tutti questi aneddoti sono proprio pezzi della nostra storia. E Vincenzo, in tante interviste hai raccontato in questi giorni anche del tuo rapporto con la malattia, con le malattie, no? Perché hai deciso di averne più di una, tra l'altro. Ma sono degli amici fantastici che mi accompagnano. E immagino che anche questa cosa, rispetto al tuo essere padre, no, abbia rafforzato ancora il vostro rapporto adesso. Sì, assolutamente, questo ha rafforzato ancora di più, perché poi c'era una sensibilità particolare che si crea in famiglia, tra mia moglie Rosa Maria e mia figlia Caterina, un sentimento protettivo bello che avrebbe poco. O Mr. Parkinson che mi lascia poco tranquillo, o Mr. Diabete che anche lui fa i suoi lasciati, insomma, fare bene d'accordo tutti insieme, glaucoma, diabete, Parkinson, è un principio interessante, è come un film parallelo, però sai le tue poi. Vincenzo, senti, per parlare di cose un po' più leggere, so che uno delle cose di cui sei più orgoglioso nella tua carriera, davvero appassionato disneyano e di fumetti, è la tua paperizzazione, diciamo così, no? Il personaggio di Vincenzo Paperica, che ti garantisco tutti ricordano con affetto, perché ieri me l'hanno detto in tantissime persone. Com'è avvenuta questa cosa? È avvenuta che una sera a Club Tempo, Andrea Pazienza, dopo aver incontrato Gino Paoli, che insomma non siano timidi tutti e due, insomma non avevano avuto un incontro, diciamo, dei più tranquilli, allora a un certo punto arrivò in un albergo dove c'ero anch'io, Andrea, e fece una caricatura di Gino Paoli che vi racconto perché è molto divertente. Gino Paoli con una pistola puntata alla tempia spara e la pallottola rimbalza. Il disegno di Andrea. Poi dietro questo disegno, che conservo ovviamente ancora, fece in un attimo, proprio con un gesto immediato, mi guardò e fece Vincenzo Paperica, lo disegnò in un secondo. Quando mi chiese da Topolino di fare una storia per il tempo del cinema, del nostro cinema, allora mi sentì a quel paperino disegnato da Andrea Pazienza. Però trasformò e fece poi, lui che è un grandissimo disegnatore, Raffaele del disegnatore di Milani, lo trasformò in un personaggio che siamo già arrivati all'ultima storia, che era la 13ª di Vincenzo Paperica, con Diego Perone, l'intervista definitiva. E così, insomma, è nato Paperica. Grazie davvero a Vincenzo Mollica per essere stato qua con noi. Tu continua ad ascoltarci ogni domenica mattina e noi sicuramente, insomma, credo che Vincenzo sarà comunque ancora grande protagonista in nuove forme che probabilmente arriveranno nei prossimi mesi. La definizione più bella che mi hanno dato i nostri ascoltatori è Mollica patrimonio dell'umanità gentile. Assolutamente. mi sembra un po' esagerato, comunque. Lo facciamo nostro. Salutaci anche Caterina, grazie Vincenzo, grazie, per essere stato con noi. Grazie, ciao, Vincenzo. Ciao. Grazie a voi, ciao, buon lavoro. Ciao. Grande Vincenzo Mollica in questa puntata dei Padri Eterni. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua in diretta. Padri Eterni. Mi ero un po' distratto, lo ammetto, perché stavo guardando il sito Lezioni sul sofà, te ne accennavo prima, no? ne hanno parlato credo proprio Alessandro Milan e Leonardo Manera qualche giorno fa, questa bellissima idea di Matteo Corradini e Andrea Valente, sono due amici, sono due scrittori che veramente in 24 ore hanno messo su questo sito, chiedendo a tanti altri colleghi, scrittori e scrittrici, di fare dei piccoli contributi, delle piccole lezioni, no? Visto che gli scrittori per ragazzi tengono compagnia ai ragazzi tutto il tempo dell'anno, loro hanno detto: ok, si chiudono le scuole, apriamo i libri e non solo. E ci sono tantissimi amici che danno micro lezioni. Si potrebbe fare qualcosa anche sul fumetto, forse? Ma assolutamente sì. Qualcosa c'è, perché danno un po' di dritte sul come scrivere una storia, fare un disegno. Tra l'altro stavo pensando che potremmo anche noi, magari finita la puntata, caricare qualcosa al volo, spiegare ai bambini come si fa un'intervista, per esempio. Un grandissimo piacere, sposto il treno immediatamente. Sì, insomma, adesso vabbè, lo faremo. Ma a proposito di fumetto, so che il prossimo ospite, l'abbiamo già stata qua con noi, Padri Eterni, in occasione di un altro libro, e c'è una nuova uscita, è una graphic novel, si intitola Per sempre. Lei è Assia Petricelli, a cui diamo il benvenuto. Ciao Assia. Ciao. Ciao Assia, benvenuta, anzi bentornata, ma ritorni da noi da Premio Andersen. È vero. Ricordiamolo, insomma, no? Quindi, sì, con Cattive Ragazze abbiamo vinto il Premio Andersen, io e il disegnatore Sergio Riccardi, che ha realizzato con me anche questo nuovo libro, Per sempre, Per noi. Come sempre, insomma, come sempre, anche con Per sempre toccate proprio il tema del un po' del rapporto tra maschi e femmine, in questo caso si parla di primi amori, ed è sempre un occhio privilegiato per noi genitori e per noi padri, anche dove, insomma, sempre non siamo sensibili o abituati a toccare questi argomenti. Partiamo proprio da qua, Assia. Cioè, un padre cosa può trovare in questo libro? Allora, diciamo che potrebbe trovare uno sguardo dalla parte dei figli. È un libro che racconta la storia di un primo amore attraverso lo sguardo di una ragazza di 16 anni, però al tempo stesso racconta anche il rapporto con gli altri e con le altre, con le amiche e anche con gli adulti, quindi anche con i suoi genitori, un padre e una madre piuttosto, diciamo, diversi. Un padre che sembra dimesso, assente, un po' vittima anche di una moglie invece con un carattere più deciso ed esuberante, e può trovare sicuramente, diciamo, le tappe di una crescita che tutti da adolescenti abbiamo vissuto, ma molto spesso poi quando diventiamo adulti le dimentichiamo. Ah sì, devo dire, il libro contiene tanti temi, no? tante suggestioni. Devo dire, riallacciandomi a questa cosa che stavi dicendo, no? Viene proprio bene messa in campo questa forma di coercizione sottile quasi, che soprattutto le figlie a volte subiscono. Adesso chiamarla discriminazione di genere sarebbe forse eccessivo, però direi che è sintomatico in questo caso quell'episodio della storia in cui il bello, diciamo qui, del gruppo nota Viola solo nel momento in cui lei si veste, diciamo così, da femmina, tra virgolette, no? Accogliendo la proposta della madre di indossare un vestito particolarmente grazioso. Quanto è viva ancora, no, questa modalità nella nostra società, pur moderna, pur evoluta, il gioco dei ruoli, il maschio che deve fare il maschio, la femmina che deve fare la femmina, soprattutto l'intesa del rapporto sentimentale come proprietà, no, noi ci apparteniamo, tu mi appartieni. È l'acqua in cui viviamo, e perché ci siamo dentro non ce ne accorgiamo, ne avvertiamo la presenza soltanto quando vi sono dei casi eclatanti, dei casi di violenza sulle donne, femminicidi, però noi viviamo immersi in una cultura che è patriarcale e che guarda le donne e agli uomini in maniera diversa, confinandoli in generi diversi, con aspettative e caratteristiche differenti fin dalla primissima infanzia. Basti pensare, non so, ai colori che vengono dati ai bambini, ai giochi che vengono proposti ai bambini. Quindi volenti o nolenti noi cresciamo, uomini e donne, in maniera differente, e per quanto riguarda le ragazze, le donne in generale, cresciamo continuamente viste dall'esterno, cioè ci guardiamo attraverso gli occhi degli altri. Certo. Non a caso in esergo al libro c'è una citazione da Rossana Rossanda che dice proprio questo, è una forma di auto-oggettificazione, così la chiamano gli psicologi, delle donne, per cui diventa difficile riuscire ad avere un contatto diretto con se stesso, in quanto siamo sempre, ci guardiamo attraverso lo sguardo degli uomini in primis, comunque uno sguardo altro dal nostro. Ma Assia, ma e anche Matteo, no? Volevo farvi questa domanda un po' ricollegandoci anche a quello che abbiamo detto fino ad ora, che insomma sono giorni particolari, giorni dove c'è tempo per fare altro, e dove stranamente le nostre ragazze e ragazzi hanno anche il tempo di aprire per caso un libro, e magari questo libro può essere anche un fumetto, che ha un linguaggio bizzarro, amatissimo da tanti, però anche tanti che ancora lo ignorano. Cioè, ci sono adolescenti che considerano il fumetto una cosa per bambini, adesso tante ragazze in questi anni hanno riscoperto, ma grazie anche a lavori come questo, il graphic novel, quindi si stanno riavvicinando a questo linguaggio. C'è un modo che consigliate per avvicinarsi al fumetto? Rispondi tu, Assia, per prima. Non lo so, rispondi tu, Matteo. Ma guarda, io ho un antidoto che è assolutamente elementare, ma che è il più efficace di tutti. Leggere fumetti belli. Nel senso che il pregiudizio nei confronti di qualunque linguaggio si combatte con la bellezza. Leggere fumetti belli come questo, leggere fumetti che parlano agli adolescenti, che parlano degli adolescenti, che parlano la loro lingua, è la maniera migliore per scoprire qualcosa e farsene davvero travolgere e innamorarsene. Per me è questo. Io sono d'accordissimo con Matteo, aggiungo soltanto che credo sia importante presentarle come storie, indipendentemente dal linguaggio attraverso il quale sono veicolate. Leggiamo una storia, e credo che, insomma, questa distinzione in generi appartenga più agli adulti che ai ragazzi e ai bambini. Perché, insomma, prima parlavamo anche di tempo perso. Non c'è un po' il pregiudizio che se un genitore vede un figlio leggere un libro è ok, se invece lo vede leggere un fumetto magari è tempo perso? È un po' di ignoranza, diciamo, probabilmente questi genitori, insomma, non hanno non hanno conosciuto bene quello che è il linguaggio del fumetto, che ha tante declinazioni differenti, ma il fumetto è sicuramente un linguaggio che va conosciuto perché per essere compreso, e quindi bisogna anche abituarsi a leggere fumetti. Io, ad esempio, ci sono arrivata molto tardi, da ragazzina non ero una grande lettrice di fumetti, e poi insomma in età più adulta è stata per me proprio una scoperta straordinaria, è stata proprio un'esplosione. È un linguaggio che arriva poi molto a fondo, no? A volte anche molto più a fondo della parola scritta, proprio grazie all'immagine che diventa parola a sua volta, che diventa racconto a sua volta. Nel caso di Per Sempre devo dire un grande applauso ai disegni di Sergio Riccardi, perché è riuscito a livello grafico a caratterizzare i personaggi in una maniera, cioè gli adolescenti sono quasi tutti spigolosi, no? Nei lineamenti, nei tratti del corpo, come se niente fosse ancora definito in un certo senso, come se fossero in divenire. Al contrario, i personaggi che hanno invece in qualche modo già imparato a conoscere se stessi sono più morbidi, più rotondi, più accesi. È proprio bella questa lettura, no, dell'adolescenza come territorio in cui tutto è ancora possibile, magari se gli adulti, no, spesso non arrivano, come dire, un pochino a rovinare i giochi, è anche meglio. Allora, è molto importante la responsabilità degli adulti. Questo. E di tutti gli adulti, insomma, non soltanto dei genitori biologici, ma io credo molto in una genitorialità diffusa. Per Sempre, ricordiamo, la casa editrice, aspetta che ho perso il... Tunue, ok, bravo Matteo. Assa Petricelli e Sergio Riccardi, grazie davvero Assa per essere stata con noi, e complimenti davvero per questo bellissimo lavoro. Ciao, buona domenica. Grazie mille a voi. Grazie, buona domenica. Assia. Ciao. Ciao. E ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo Danilo Di Trani, che con noi ha scritto il programma, Lorenzo Nespoli oggi in assistenza, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, Padri Eterni @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, i Padri Eterni di Radio 24, la nostra pagina su Facebook, radio24.it, il sito con appunto il podcast che potete scaricare e riascoltare qualsiasi ora, e noi si ricomincia, insomma, noi siamo nelle regioni coinvolte, io ho mio figlio a casa da scuola, io ne ho tre, tu ne hai tre. Sarà una settimana interessante, moltissimo. Noi questa settimana tra l'altro l'abbiamo celebrata insieme al figlio adolescente, ci siamo andati a fare l'orecchino. Anche sì. Tu? No, io no, però ho accompagnato il figlio, che insomma c'è questo aneddoto, ti ho pensato mentre lui, ti ho pensato, perché ovviamente quando vai a farti il buco per l'orecchino ti fanno vedere quale orecchino mettere, l'orecchino provvisorio, no? Certo. E c'era la stellina, la fatina, il brillantino, perché probabilmente ci vanno la maggior parte, il 99% sì, sono ragazzi. Sono ragazzi. Noi abbiamo trovato una pallina che era abbastanza innocua, però ti ho pensato lì per un attimo a scegliere tra fatina e stellina insieme ai tuoi figli, e ho detto sono Matteo Bussola anch'io per un attimo. Fatina tutta la vita comunque. No, però è stato bello. Poi la farmacista che ti guarda, lei è il padre, d'accordo, ho detto ma siamo qua. Cioè, è stato, si potrebbe fare un piccolo gioco insomma, è stato un bel momento anche quello. Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia, come sempre ci ritroviamo qua domenica prossima alle 11 con i Padri Eterni. Ciao.